Un piccolo podere, giovedì 6 ottobre. Il giorno dopo, durante una sosta, Nils approfittò del momento in cui H si era un po' allontanata dallo stormo, pascolando, per chiederle se era vero quel che Battacchi aveva riferito. E H non poté negarlo. Il ragazzo le fece promettere di non farne parola con Morten. Ripresero il volo e Nils rimase a lungo cupo e silenzioso in groppa all'occone, indifferente alle grida degli uccelli che annunciavano di essere già nel Vermland e che il fiume che seguivano era il Klarelf. Le oche seguirono il fiume fino al grande stabilimento industriale di Munkfors, quindi deviarono a ovest. A sera, non avendo ancora raggiunto il lago Fricken, atterrarono in una vasta palude su un altopiano. Buon posto per le oche. Ma il ragazzo avrebbe voluto trovare di meglio per sé. Volando aveva scorto qualche casa ai piedi dell'altopiano e decise di recarvisi. Erano più lontane di quanto avesse supposto, ma finalmente trovò una strada che lo condusse a una fattoria. Il cortile era vasto come la piazza del mercato di un borgo circondato da edifici lunghi e bassi dipinti di rosso. Lo attraversò. Giunse a un secondo cortile dove sorgeva la casa padronale, preceduta da un bel prato morbido e con un lussureggiante frutteto alle spalle. La luna splendeva, il prato sembrava d'argento, non si vedeva anima viva. Nils s'aggirò qua e là e s'avvide che il frutteto abbondava di ribes rosso e nero, uva spina e lamponi, e nell'orto c'erano rape e navoni e spighe spuntavano tra le erbe. E in mezzo al viale una bella mela rossa luccicava sotto i raggi lunari. Nils si sedette sul bordo di un'aiuola e col temperino si mise a tagliare a pezzetti il frutto, pensando che non era poi una gran disgrazia essere un piccolo coboldo, perché dappertutto si trovava da mangiare. Udì uno stormire di foglie sopra il suo capo e sul viale cadde qualcosa che pareva un piccolo ceppo di betulla. Il ceppo si muoveva e aveva due puntini luminosi come carboni ardenti. Si avvicinò, lasciando scorgere un becco adunco e due occhi circondati di piume. Che piacere incontrare finalmente qualcuno, esclamò il ragazzo. Dica un po', signora Civetta, saprebbe dirmi come si chiama questa tenuta e chi ne è il proprietario? La civetta, che fino a quel momento se n'era stata appollaiata sulla lunga scala a pioli appoggiata al tetto della casa, era rimasta sorpresa vedendo arrivare un animaletto che non era uno scoiattolo, né un gatto, né una donnola e neppure un uccello, e alla fine, incapace di resistere alla curiosità, era scesa a vedere. Non aveva artigli né pungiglioni, constatò, ma chi poteva garantirle che non avesse armi ancora più pericolose? Meglio stare in guardia. E ad alta voce rispose: Il possedimento si chiama Marbaca e un tempo era abitato da agiati cittadini, ma tu chi sei? Ho una mezza intenzione di venirmici a stabilire, replicò lo strano essere, eludendo la domanda. La tenuta non è granché adesso in confronto a quello che era un tempo, disse la civetta, ma ci si trova comunque da campare. Dipende dalla vita che vuoi fare e da quello che mangi. Dai la caccia ai ratti tu? Oh, Dio me ne guardi, esclamò il nanetto. È più facile che i topi divorino me. Non è possibile che sia inoffensivo come vuol far credere, pensò la civetta. Beh, mettiamola alla prova. Spiccò il volo e piombò su Nils, affondandogli gli artigli nelle spalle e cercando di cavargli gli occhi con il becco. Con un braccio il ragazzo tentò di svincolarsi con l'altro, coprendosi il viso e invocando aiuto con quanto fiato aveva. Si rendeva conto del grave pericolo. Ora, proprio l'anno in cui Nils viaggiava con le oche, c'era una persona che pensava di continuo a un libro che intendeva scrivere sulla Svezia, un libro di lettura per le scuole. Ci aveva riflettuto dal Natale all'autunno, ma non aveva ancora scritto una riga e alla fine se n'era stancata a tal punto che aveva detto a se stessa: Non sei capace di scriverlo. Mettiti a tavolino, inventa fiabe e novelle, come hai sempre fatto, e lascia ad altri la cura di scrivere un libro istruttivo e serio in cui, soprattutto, non si trovi una parola che non sia veritiera. Codesta persona era quasi decisa ad abbandonare l'impresa quando le venne l'idea che la sua capacità dipendeva forse dal fatto di vivere in città, dove non si vedono che strade e case. Se fosse andata a stare in campagna, dove avrebbe visto boschi e campi, forse ce l'avrebbe fatta. Era del Vermland e aveva deciso di cominciare la storia da quella provincia, descrivendo innanzitutto il luogo dove era cresciuta. Un piccolo possedimento isolato dal resto del mondo, dove si erano conservati a lungo i modi di vestire e le usanze antiche. Voleva raccontare ai ragazzi come si celebravano le feste, Natale, Capodanno, Pasqua e che aspetto avevano la cucina, la dispensa, la scuderia e la sauna. Ma la penna si rifiutava di obbedire. Eppure quelle cose le ricordava perfettamente, come se ancora vivesse laggiù. Ma se voleva andare a stabilirsi in campagna, perché fare visita alla vecchia casa prima di accingersi a scrivere? Ovunque andasse ne provava nostalgia, vedeva luoghi anche assai più belli, certo, ma in nessun altro posto provava la sicurezza e il benessere che aveva conosciuto nella dimora della sua infanzia. Non era facile. La tenuta era stata venduta a gente sconosciuta e preferì arrivarvi la sera quando tutti avessero finito le faccende. Che sensazione strana provò nel rivedere la sua casa, mai l'avrebbe creduto. Non era più una donna di mezza età, dai capelli grigi, ma una bambina con le gonne corte e una lunga treccia color lino, e i suoi erano là ad aspettarla sulla soglia, e la vecchia governante s'affacciava alla finestra di cucina, e Nerone, Freia e due o tre altri cani accorrevano a farle festa. Via via che si avvicinava alla casa, si sentiva sempre più felice. Era d'autunno, stagione dei raccolti, e il primo lavoro che l'attendeva era quello di raschiare le patate per ricavarne la fecola. E il luppolo? E le mele? Forse i suoi stavano riordinando la casa, come sempre facevano prima della fiera d'autunno, che era una festa soprattutto per i domestici. E che gioia, la vigilia della fiera, entrare in cucina e vedere il pavimento cosparso di foglie di ginepro tritate e i muri imbiancati di fresco. Ma passata la fiera bisognava provvedere al lino, messo a seccare nell'apposito forno, e poi sarebbero venute le donne dei dintorni a batterlo per togliere le fibre bianche e sottili dei gambi, sollevando un polverone che le faceva tutte grigie. E polvere, chiacchiere e risate turbinavano attorno alla stufa. E poi le gallette per l'inverno, e la tosatura delle pecore, e l'assunzione di nuovi garzoni. In novembre si macellavano le bestie e si preparavano carni salate e affumicate. Poi veniva la sarta per confezionare i vestiti con le stoffe tessute in casa. 2 settimane deliziose in cui tutti non facevano che lavorare d'ago. E compariva anche il calzolaio a tagliar cuoio, suole e stivali, cucendoli con il refe. Sotto Natale l'attività si faceva febbrile. Il giorno di Santa Lucia, la cameriera vestita di bianco con in testa una corona di agrifoglio e candeline svegliava tutti alle 5 del mattino portando il caffè. Per 2 settimane non si poteva pensare molto al sonno. Bisognava preparare la birra di Natale, cuocere i pani e i dolci di Natale, fare le grandi pulizie di Natale. La viaggiatrice, che pensava a tutto questo, trasalì quando il vetturino fermò i cavalli all'inizio del viale di Betulle, come gli era stato ordinato. Era malinconico ritrovarsi così sola, a sera inoltrata, dopo essersi rivista in sogno tra i suoi, e provò una tale fitta d'angoscia, avviandosi a piedi verso l'antica casa dei padri, che fu sul punto di risalire in carrozza. Ma ormai era lì. E voleva rivedere i luoghi della sua giovinezza, anche se a ogni passo la sua tristezza aumentava. Aveva udito dire che la tenuta era in stato di abbandono, ma nel buio le pareva che tutto fosse come prima. Ecco lo stagno in cui quando era bambina nuotavano tanti girini, ed ecco un volo di piccioni sfiorarla all'improvviso. Era un fatto strano. I piccioni non volavano dopo il calar del sole, ma forse erano stati risvegliati dal chiar di luna. Che fossero venuti a salutarla, a dirle che ricordavano quanto i suoi erano stati ospitali con loro. O forse suo padre le mandava per mezzo dei piccioni un piccolo segno perché non si sentisse triste e angosciata rivedendo l'antica dimora. La nostalgia le riempì gli occhi di lacrime. Com'era dolce la vita che si conduceva un tempo. Settimane di lavoro, ma anche di festa. E la sera ci si radunava attorno al lume a leggere Tegner e Runeberg, i libri della Lenngren e della Bremer. Si coltivava il grano, ma anche le rose e il gelsomino. I bambini avevano sudato molto sulla grammatica e la storia, ma anche fatto del teatro in casa e scritto versi. E ci si era scottati facendo da mangiare, ma anche si era imparato a suonare il clavicembalo, il flauto, la chitarra, il violino e il pianoforte. Erano vissuti nell'isolamento e forse proprio per questo la memoria era piena di leggende e fiabe. In nessun luogo al mondo, pensò a quella persona che era una scrittrice, si era mai vissuto così bene. Lavoro e piacere erano suddivisi in equa misura e ogni giorno c'era un motivo di gioia. Come mi piacerebbe ritornare! Poi pensò, adesso che ho rivisto il mio antico focolare, quanto mi dispiace lasciarlo! E rivolta ai piccioni, perché non andate da mio padre a chiedere se può farmi ritornare? Aveva appena pronunciato queste parole che lo stormo si levò compatto in volo e disparve all'improvviso. E allora la scrittrice udì levarsi nel giardino grida acute, accorse e vide una cosa straordinaria, un ometto alto, non più di un palmo, alle prese con una civetta. Dapprima lo stupore fu tale da paralizzarla, ma poi si riscosse e andò a separare i contendenti. La civetta volò su un albero, l'ometto invece le rimase davanti. La ringrazio, le disse, ma non doveva lasciar scappare la civetta. Adesso è lassù che mi spia e appena lei se ne andrà tornerà ad attaccarmi. È vero, sono stata una sciocca a lasciarla volar via, ma non potrei accompagnarti a casa tua? Benché fosse avversa alle fiabe, era sbalordita di trovarsi davvero intenta a conversare con un coboldo. E d'altro canto, perché sorprendersi? Non si era augurata di imbattersi in qualcosa di straordinario mentre percorreva al chiaro di luna i viali della casa Avita? Veramente avevo intenzione di pernottare qui, rispose l'omino. Se lei potesse indicarmi un rifugio per la notte, non tornerei alla foresta che domattina. Ma non abiti qui? Chiese la donna. E l'ometto. Beh, capisco che lei mi scambi per un coboldo, ma sono un essere umano come lei, solo vittima di un incantesimo. Oh, è la cosa più straordinaria che abbia mai udito, replicò la scrittrice. Ti dispiacerebbe raccontarmi? Nils era ben lieto di riferire le sue avventure e più procedeva nel racconto, più contenta sembrava la sua ascoltatrice. Oh, che fortuna! Imbattersi in qualcuno che ha percorso tutta la Svezia in groppa a un'oca, rifletteva lei. Non ho che da scrivere la sua storia. Ed ecco, belle, pronto il libro di cui tanto mi preoccupavo. Ah, che buona idea quella di tornare ai luoghi dell'infanzia! Mi è venuto subito incontro un aiuto inaspettato. Un'idea le balenò alla mente. Aveva mandato a suo padre un messaggio per mezzo dei piccioni per dirgli che provava nostalgia della casa Avita, ed ecco un istante dopo la soluzione di un problema che tanto le stava a cuore. Che fosse la risposta di suo padre? Verso il mare, venerdì 7 ottobre. Dall'inizio del viaggio di ritorno, le oche avevano continuato a volare verso sud, ma lasciata la valle del Fricken, avevano preso un'altra direzione e, attraversando il Värmland occidentale e il Dalsland, puntarono verso il Bohuslän. Fu un lungo volo. Le oche giovani si erano però abituate ai disagi e non si lamentavano più, e a Nils era tornato un po' dell'antico buonumore. Aver parlato con un essere umano lo aveva rianimato. Quella signora gli aveva detto che senza dubbio, se avesse continuato a mostrarsi buono e servizievole con quanti avessero bisogno di lui, la sua avventura sarebbe finita bene. Certo, la signora non poteva predirgli come avrebbe fatto a recuperare la statura normale, ma gli aveva ridato un po' di fiducia. Nils non pensava più che al modo di dissuadere l'Ocone Bianco dal tornare a Vemmenhög Ovest. A un certo punto Nils disse: Morten, sarebbe piacevole andare all'estero con le oche selvatiche? Mica dici sul serio, esclamò spaventato Morten, il quale adesso che aveva dimostrato di essere in grado di seguire le oche fino in Lapponia, non chiedeva di meglio che di tornare da Holger Nilsson. Il ragazzo tacque guardando il paesaggio e poi soggiunse: Mi sembra che la terra non sia mai stata bella come oggi. Non ti pare che sarebbe un peccato andarci a rinchiudere a Vemmenhög Ovest? Credevo che tu morissi dalla voglia di rivedere i tuoi e dimostrare loro che bravo ragazzo sei diventato. Tutta l'estate Morten non aveva fatto che sognare il momento in cui sarebbe disceso davanti alla casa di Holger Nilsson, avrebbe esibito piuma fina e i sei paperi loro figli alle oche domestiche, alle galline, alle mucche, al gatto e a mamma Nilsson in persona. Solo verso sera le oche giunsero sopra il Dalsland, dove il paesaggio era quasi più bello che nel Värmland. I laghi erano così numerosi che la terra si riduceva a una serie di strisce. Non c'era molto spazio per i campi, ma gli alberi erano abbondantissimi e le rive parevano altrettanti parchi. Non pensi, Morten, che sarà triste non vedere più queste belle cose? riattaccò Nils. «Preferisco di gran lunga le grasse pianure della Scania a queste magre colline sassose», replicò Morten, «ma se ci tieni a continuare il viaggio verrò con te». «Ma aspettavo questa risposta», disse Nils, e dal tono si capiva che era un gran peso tolto dal suo cuore. Le oche selvatiche sorvolarono il Bohuslän con la massima rapidità, tanto che Morten ansimava per tener loro dietro. All'improvviso apparve all'ovest una striscia luminosa che a ogni colpo d'ala si allargava. Era il mare, lattescente, iridato, ora con riflessi rosa e ora azzurri. E superato un promontorio, ancora una volta si vide il sole, sospeso, immenso e rosso, sopra i flutti in cui stava per sprofondare. Scorgendo l'infinita e libera distesa delle acque e il sole al tramonto di uno splendore così tenue da poterlo fissare, Nils sentì una gran pace e una grande sicurezza penetrargli in cuore. «Perché affliggersi, Nils Holgersson?» diceva il sole. «È bello vivere in questo mondo, tanto per i grandi che per i piccoli». Le oche si posarono infine su uno scoglio davanti alla città di Fjällbacka. Era mezzanotte e la luna brillava altissima in cielo quando la vecchia Akka andò a svegliare Iksi e Kaksi, Kolmo e Nelie, Visi e Kusi e toccò col becco anche Nils. «Che c'è, mamma Akka?» chiese questi balzando in piedi. Poi si vide accanto qualcosa che a prima vista gli parve un'alta pietra aguzza, ma finalmente si avvide che era un grosso uccello rapace, Gorgo, l'aquila. Lui e Akka dovevano essersi dati appuntamento perché non parevano meravigliati. «Questa sì che si chiama puntualità», fece l'oca a mo' di saluto. «Temo che soltanto la mia puntualità sia da lodare», replicò Gorgo, «perché non sono riuscito ad assolvere all'incarico che mi hai affidato». «Sono certa che hai fatto tutto il possibile». «Sì, ma non ho avuto fortuna», replicò Gorgo. «Ho trovato subito la fattoria di Holger Nilsson e dopo ore e ore di volo planato sulla casa ho visto il coboldo. Gli sono piombato addosso e l'ho portato in un campo per discorrere tranquillamente con lui. Gli ho detto che venivo da parte di Akka di Kebnekaise per pregarlo di rendere meno dure le condizioni imposte a Nils Holgersson». E lui mi ha risposto: «Lo farei ben volentieri perché ho capito che in viaggio si è comportato molto bene, ma non dipende da me». Allora mi sono infuriato e lui: «Fai come vuoi, ma per Nils Holgersson le cose non andranno certo meglio. Comunque digli di tornare al più presto con Morten perché qui le cose vanno male. Holger Nilsson si è fatto garante per il fratello e ha dovuto sborsare una grossa somma. Poi con denaro avuto in prestito ha acquistato un cavallo, ma la bestia si è azzoppata fin dal primo giorno e così non gli è stata di nessuna utilità. E dia Nils che i suoi genitori hanno già dovuto vendere le mucche e che forse dovranno lasciare la fattoria se nessuno li aiuta». Ascoltando quelle parole, Nils aggrottò la fronte e strinse i pugni tanto che le nocche gli divennero bianche. «Il coboldo ha agito con molta crudeltà», esclamò, «imponendomi una condizione tale da rendermi impossibile il ritorno a casa. Ma non riuscirà a fare di me un traditore che inganna l'amico. Papà e mamma sono brava gente e so che preferirebbero rinunciare al mio aiuto piuttosto che vedermi in preda ai rimorsi». Il ritorno a Vemmenhög. Giovedì 3 novembre. Akka guidò le oche verso la pianura della Scania, dove a perdita d'occhio si vedevano campi di grano e barbabietole, basse fattorie, un'infinità di chiesette bianche, brutti zuccherifici, borgate raccolte attorno alle stazioni ferroviarie. E c'erano torbiere e miniere di carbone con accanto cumuli enormi e lustri di combustibile e strade serpeggianti tra salici e linee ferroviarie che si incrociavano formando una rete di fittissime maglie. Qua e là, ai piedi di castelli, luccicavano laghetti bordati da querceti. «Guardate, guardate bene!» gridò la capostormo. «Ecco quello che vedrete all'estero, dalla costa del Baltico alle Alpi, che io non ho mai valicato». Poi Akka guidò lo stormo verso la costa del Sund, dove lunghe strisce di alghe orlavano le spiagge. Le casette dei pescatori si allineavano tutte uguali sulle rive, e un piccolo faro sorgeva sulla punta di un molo, e ovunque le reti erano stese ad asciugare. «Guardate!» gridò Akka. «Le coste all'estero sono come queste!» Le oche sorvolarono alcune città, molte ciminiere, strade e vicoli tra case alte annerite dal fumo, grandi e bei giardini pubblici, vecchie fortificazioni, antiche chiese, porti pieni di navi. Le città all'estero sono come queste, ma molto più grandi, commentava H. Però anche queste col tempo si ingrandiranno. Discese quindi con lo stormo in una palude nel distretto Vemmenhög Ovest e Nils si chiese se Loka non avesse fatto tutte quelle deviazioni sopra la Scania per dimostrargli che il suo paese poteva reggere il confronto con qualsiasi terra straniera. E concluse che era stata una fatica inutile. Lui non si domandava se il suo paese fosse ricco o povero perché, non appena aveva scorto i primi salici ai bordi delle strade e la prima casa bianca con la colombaia, era stato ripreso dalla nostalgia dei luoghi natii. A casa di Holger Nilsson. Martedì 8 novembre. Il tempo era grigio e nebbioso. Le oche stavano facendo la siesta e H ne approfittò per accostarsi a Nils e dirgli che il tempo non le pareva favorevole per la traversata del Baltico, meglio rimandarla all'indomani. «Bene», borbottò Nils, e non poté dire altro perché un nodo gli serrò la gola. Nonostante tutto aveva sperato di essere sciolto dall'incantesimo prima di lasciare la Scania. «Siamo abbastanza vicini a Vemmenhög Ovest», proseguì H. «E pensavo che ti sarebbe piaciuto fare una capatina a casa, già che ci siamo. Dopo starai un pezzo senza rivedere i tuoi». «Forse è meglio che non ci vada», replicò Nils, ma il tono della voce smentiva le parole. «Devi andare almeno a vedere come stanno le cose a casa tua», insistette H. «Sei piccolo, ma forse puoi aiutare i tuoi». «Hai ragione, mamma H», rispose Nils tutto emozionato. «Avrei dovuto pensarci prima». Poco dopo scendevano dietro il muretto che circondava la masseria e Nils trovò strano che tutto fosse rimasto tale e quale. Loka gli chiese se suo padre possedeva un fucile e alla risposta affermativa di Nils disse «Allora non conviene che io mi fermi qui. Meglio che tu ci raggiunga domani mattina sul promontorio di Smygehuk. Potrai pernottare qua». «Oh no, mamma H, non andartene!» esclamò Nils saltando giù dal muro. Non sapeva perché, ma aveva l'impressione che qualcosa stesse per accadere a lui e alle oche e che non si sarebbero più riviste. «Vedi bene quanto mi rattrista non riavere la mia statura normale», continuò, «ma voglio che tu sappia che non rimpiango certo di avervi seguito la primavera scorsa e che preferirei non diventare più un uomo piuttosto che non aver fatto questo viaggio». H aspirò a fondo prima di rispondere. «C'è una cosa di cui volevo parlarti», disse poi, «e tanto vale che lo faccia adesso. Se credi di aver imparato qualcosa di buono stando tra noi, dimmi, sei del parere che gli uomini debbano essere soli sulla terra? Guarda quanto spazio avete voi, e non potreste lasciarci qualche roccia nuda sulla costa, qualche lago chiuso alla navigazione, qualche palude, qualche field deserto, qualche selva remota, dove anche noi povere bestie si possa vivere in pace? Tutta la vita sono stata cacciata e perseguitata, e come sarebbe bello sapere che da qualche parte c'è un rifugio sicuro per una creatura come me». «Ah, quanto mi piacerebbe potervi aiutare!» esclamò il ragazzo, «ma non credo che avrò mai molta voce in capitolo tra gli esseri umani». «Non si sa mai», disse Loka. Poi aprì le ali, accarezzò Nils con il becco e via. Era sul mezzogiorno, ma nella masseria non s'udiva rumore di sorta. Nils corse alla stalla per avere notizie dalle mucche. La stalla aveva un'aria triste. Invece delle tre belle bestie della primavera, ne vide una sola, la rossa, a testa china per il dolore di aver perso le sue compagne, tanto che quasi non toccava il foraggio. Al buongiorno del ragazzo trasalì, riconoscendone la voce, e abbassò la testa come per dargli una cornata. Ma lo guardò meglio e si avvide che, per quanto piccolo e vestito come il giorno della partenza, pareva un altro. Non era più svogliato, con lo sguardo assente, ma sveglio e scattante, il tono deciso, gli occhi brillanti e vivaci. «Mu!» muggì la rossa. «Ma avevano detto che eri cambiato, ma non volevo crederlo». «Sì, il benvenuto a casa, Nils Holgersson. È il primo momento di gioia che ho da molto tempo». Dopo averla ringraziata, Nils chiese notizie dei genitori. La mucca gli disse che da quando il ragazzo era partito non avevano avuto che dispiaceri, ma la faccenda peggiore era la storia del cavallo, che era costato tanto e non aveva reso nulla. Il padre di Nils avrebbe preferito non ammazzarlo, ma nessuno voleva comprarlo a causa del cavallo. Avevano dovuto vendere Stella e Silvia, le altre due mucche. Nils ardeva dal desiderio di farle un'altra domanda, ma si sentiva in imbarazzo e preferì aggirare l'ostacolo. Chiese dunque se sua madre era molto seccata per la scomparsa dell'ocone bianco e la mucca. Si sarebbe seccata meno se solo avesse saputo come è scomparso. Adesso le dispiace soprattutto che suo figlio, fuggendo di casa, se lo sia portato via. «Ah, crede dunque che l'abbia rubato?» esclamò Nils. «E la mucca, che altro potrebbe credere?» «Allora i miei genitori pensano che quest'estate abbia vagabondato come un mendicante. Hanno pianto per te come si piange per l'essere più caro al mondo», rispose la mucca. Nils abbassò il capo e uscì in fretta dalla stalla e andò nella scuderia, dove c'era un bel cavallo che pareva letteralmente scoppiare di salute. «Buongiorno», disse il ragazzo. «M'hanno detto che qui c'era un cavallo malato, ma certamente non sei tu che mi sembri in perfetta forma». Il cavallo volse lentamente la testa e lo fissò a lungo. «Sei tu il ragazzo di casa?» domandò. «Ho sentito parlare molto male di te, ma hai un'aria così simpatica che non ti avrei mai preso per Nils se non avessi saputo che sei stato rimpicciolito da un coboldo». Nils convenne di aver lasciato un cattivo ricordo. Disse che sua madre credeva che fosse fuggito come un ladro e che non intendeva fermarsi a lungo. «Peccato che tu non rimanga», sospirò il cavallo. «Saremmo diventati amici. Quanto a me non ho niente di grave. Un oggetto appuntito, forse una lama, mi si è conficcato nello zoccolo così a fondo che il veterinario non è riuscito a vederlo. Mi fa molto male, mi impedisce di camminare. Se tu potessi dire a Holger Nilsson che il malanno è tutto qui, penso che potrebbe benissimo guarirmi. Come sarei felice di rendermi utile». Nils promise di fare il possibile e gli chiese il permesso di tracciare qualche segno con il suo temperino sopra lo zoccolo. Aveva appena finito che udì voci dall'aia. Erano i suoi genitori che rincasavano e dal tono capì che erano preoccupati. La madre aveva assai più rughe di un tempo, il padre molti capelli grigi. La donna tentava di persuadere il marito a chiedere un prestito al cognato, ma lui non voleva saperne. Diceva che i debiti sono una pietra al collo e che preferiva piuttosto vendere addirittura la casa. Replicò la donna che per lei sarebbe andato bene se non ci fosse stato il ragazzo. Che cosa avrebbe fatto se un giorno Nils fosse tornato povero e affamato e non li avesse trovati? «È triste, certo», convenne il padre, «ma possiamo pregare il compratore di accogliere bene Nils e di dirgli che da noi sarà sempre il benvenuto, perché non gli faremo il minimo rimprovero. Siamo intesi, vero?» E la donna: «Ma certo, ah, se fosse qui e non dovessi tormentarmi al pensiero che soffre la fame e il freddo sulle strade». Nils non udì altro perché i due entrarono in casa. Non osò raggiungerli, perché al vederlo ridotto com'era, il loro dispiacere sarebbe stato ancora maggiore. Se ne restava lì, esitante, quando davanti al cancello si fermò una carrozza. E immaginatevi chi ne scese? Osa e suo padre, molto ben vestiti, che s'avviarono gravi e raccolti verso la casa, tenendosi per mano, con una luce di felicità negli occhi. Prima di entrare, Osa disse al padre: «Allora, papà, d'accordo? Non diremo niente di quel coboldo che assomiglia tanto a Nils, né della storia dello zoccoletto e delle oche». «D'accordo», rispose Jon Assarsson. «Dirò soltanto che il loro figlio ti ha aiutato molto e più volte mentre mi cercavi per tutta la Svezia e che siamo venuti a offrire loro il nostro aiuto in segno di gratitudine. Adesso che sono diventato ricco grazie alla miniera che ho trovato lassù». Entrarono in casa. E che cosa non avrebbe dato Nils per udire la conversazione? Ma non osava entrare. Partiti che furono i visitatori, il padre e la madre restarono per un istante al cancello, i volti raggianti di gioia. «Non voglio più essere triste dopo che abbiamo sentito parlare tanto bene di Nils», disse la donna. «Bah, mica poi che abbiano detto molto», replicò il padre pensieroso. «Non ti basta che siano venuti qui apposta per offrirci aiuto in cambio di quello ricevuto da Nils? Credo che avresti fatto bene ad accettare la loro offerta». Ma l'uomo scosse il capo, affermando di non voler accettare denaro da nessuno, né in prestito né in regalo, che prima voleva liberarsi dei debiti e che era certo che ce l'avrebbero fatta da soli. Pronunciò queste parole ridendo e la moglie, in tono di rimprovero Si direbbe che ti rallegri all'idea di disfarti di questa casa e di questa terra alla quale hai dedicato tanto lavoro. Ma non capisci perché rido? Ribatté l'uomo. Era l'idea di aver perduto Nis che mi aveva tolto ogni forza, ma adesso che so che vive e che promette di diventare un galantuomo, vedrai che Holger Nilsson sarà capace di riprendersi. Poi la madre rientrò in casa e il padre si avviò alla scuderia, mentre Nils si nascondeva in fretta. L'uomo alzò per l'ennesima volta la zampa malata della bestia e rimase stupito scorgendo alcune lettere incise sullo zoccolo. Lesse ad alta voce: togli dallo zoccolo la punta di ferro. Mentre l'uomo si occupava del cavallo, Morten, ora che era così vicino alla sua antica dimora, non aveva saputo resistere alla tentazione di esibire la moglie e i figli agli antichi compagni di cortile. Non c'era nessuno sull'aia e Morten s'avvide che l'uscio della stalla era aperto. «Venite a vedere!» esclamò. «È ben diverso che abitare negli stagni e nelle torbiere. Ecco, quello era il mio posto e lì stava la mangiatoia, sempre piena d'avena e d'acqua. To che c'è ancora!» E Morten si mise a mangiare ingordamente. Piuma Fina aveva troppa paura di restare lì. «Andiamo via, Morten!» implorò. «Ancora un po', ancora un po'!» rispose lui, continuando a beccare la vena. Ma un attimo dopo lanciò un grido e corse all'uscio. Troppo tardi! La porta s'era chiusa di scatto e la padrona di casa già tirava il chiavistello. Adesso erano proprio in trappola! Intanto Holger Nilsson era riuscito a togliere la scheggia di ferro dalla zampa del cavallo e stava accarezzando felice la groppa della bestia, quando la moglie arrivò ansante e tutta contenta. «Vieni a vedere che cosa ho catturato!» esclamò. «Guarda prima che cosa ho fatto io!» ribatté l'uomo con gli occhi lucidi. «Ho scoperto che cosa faceva zoppicare il cavallo!» «Credo che la fortuna stia per tornare!» disse la donna. «Figurati che il grande ocone scomparso la primavera scorsa è tornato con 7 oche selvatiche!» «Credo che ne abbia seguito uno stormo durante la migrazione. Sono entrate tutte da sole nella stalla e io le ho chiuse dentro!» Il marito commentò che era davvero strano, ma che gli faceva piacere che fosse caduto così il sospetto che a portarsi via l'ocone fosse stato Nils. «Già», convenne la donna, «sarà bene che tiri il collo alle 2 oche adulte fin da stasera. Tra qualche giorno è San Martino e dobbiamo affrettarci a venderle in città». «Sarebbe un peccato ammazzare Morten adesso che è tornato in così buona compagnia», obiettò. «Se i tempi fossero meno duri», gli fece osservare la donna, «lo si potrebbe anche lasciar vivere più a lungo, ma visto che probabilmente non resteremo qui, che ce ne facciamo delle oche?» «Già, è vero. Vieni dunque e aiutami a portarle in cucina», concluse la moglie. Qualche istante dopo, Nils vide suo padre uscire dalla stalla con l'oca bianca sotto un braccio e la grigia sotto l'altro. E Morten, come sempre, quando era in pericolo, strillava «Aiuto! Pollicino, aiuto!» Nils lo udì perfettamente, eppure non si mosse dalla porta della scuderia. Non che pensasse che l'uccisione dell'oca bianca sarebbe stata utile per lui, in quel momento non rammentava neppure le condizioni imposte dal coboldo. Lo tratteneva il pensiero che per salvare Morten bisognava che si mostrasse ai genitori così com'era, e la cosa gli ripugnava. «Sono già abbastanza infelici», pensò, «e come potrei aggiungere un ulteriore cruccio ai tanti che già hanno?» Ma quando l'uscio di casa si chiuse, Nils dimenticò le sue esitazioni. Attraversò l'aia di corsa, entrò nell'anticamera dove per vecchia consuetudine lasciò gli zoccoli e s'accostò alla porta fermandosi ad ascoltare. «L'ocone bianco è in pericolo», rifletteva, «lui che è stato il mio miglior amico da quando ho lasciato questa casa». E in un istante rivisse tutti i pericoli che lui e Morten avevano affrontato sui laghi gelati e sul mare in burrasca e tra gli animali da preda. E il cuore gli si gonfiò di riconoscenza ed affetto e bussò alla porta. «Chi è?» chiese suo padre aprendo. «Mamma, mamma, non far del male all'ocone!» gridò Nils entrando come un uragano. Morten e Piuma Fina deposti legati su una panca e misero un grido di gioia all'udire la sua voce. Ma il grido più forte e giubilante fu quello della madre. «Oh, Nils! Nils, figlio mio, come sei diventato grande e bello!» Il ragazzo s'era fermato sulla soglia, incerto sull'accoglienza che lo aspettava. «Sia lodato Iddio che ti ha riportato a casa!» esclamò la madre. «Vieni, vieni!» Benvenuto, figliolo, disse il padre, che era così commosso da non poter aggiungere altro. Nis stava ancora sulla soglia, perplesso. Non comprendeva la loro gioia, ma la madre era corsa verso di lui e gli buttava le braccia al collo. E allora Nils capì quel che era accaduto. Papà, mamma, sono ridiventato grande, sono ridiventato un essere umano, gridò. L'addio di Nils alle oche selvatiche. La mattina dopo, Nils si levò prima dell'alba e s'avviò alla costa. Il giorno spuntava quando arrivò all'appuntamento con H, appena a est del villaggio di Smygehuk. Era solo. Prima di partire era andato alla stalla per svegliare l'oca bianca, ma Morte non aveva aperto becco. Aveva ricacciato la testa sotto l'ala e si era riaddormentato. La giornata si annunciava splendida, quasi come quella di primavera in cui le oche selvatiche erano arrivate. Il mare si stendeva immenso e immobile, l'aria era tranquilla e Nils pensava al bel viaggio che avrebbero fatto le sue amiche. Era ancora immerso in una sorta di dormiveglia, a tratti gli pareva di essere sempre un nanetto e poi si rendeva conto di essere di nuovo Nils Holgersson. Se incontrava un ostacolo, esitava a proseguire prima di essersi persuaso che dietro non si nascondesse nessun animale pericoloso, e poi scoppiava a ridere, felice di essere grande e forte e di non dover più avere paura. Giunto sulla riva del mare, si piantò sulla spiaggia perché le oche lo vedessero bene. Era giorno di migrazione, di continuo i richiami si intrecciavano in aria e Nils sorrise pensando che nessuno come lui sapeva che cosa significassero quei gridi. Passavano anche stormi di oche selvatiche e il ragazzo si augurò che non fossero quelle di H che se ne andavano senza dirgli addio, senza che avesse potuto raccontare loro com'era ridiventato un essere umano. S'avvicinò a uno stormo che volava più rapido e gridava più forte degli altri e qualcosa gli disse che quello doveva essere il suo. Ma non lo riconosceva con la stessa sicurezza del giorno prima. Le oche rallentarono, planando al di sopra della spiaggia, e Nils si persuase che erano proprio le sue compagne di viaggio. Ma perché non scendevano? Impossibile che non lo vedessero. Tentò di lanciare un richiamo, ma la lingua rifiutò di obbedirgli. Non riusciva a emettere la nota giusta. Udì la sua H chiamare, ma non comprese che cosa diceva. Strano, pensò, che le oche selvatiche abbiano cambiato linguaggio. Si tolse il berretto e l'agitò in aria. Corse lungo la spiaggia gridando: «Io sono qui, tu dove sei?» Ma l'unico risultato fu di spaventare le oche, che salirono più in alto e si allontanarono dalla costa. Allora, finalmente Nils capì. Le oche non sapevano che era ridiventato un ragazzo e non lo riconoscevano più e non poté richiamarle, perché gli uomini non sanno parlare la lingua dei volatili e lui non era più in grado né di parlarla né di capirla. Benché fosse felice di essere liberato da un incantesimo, era amaro per lui separarsi così dalle sue amiche oche. Si sedette sulla sabbia e si coprì il volto con le mani. A che scopo vederle partire? D'improvviso udì un fruscio d'ali. La vecchia mamma H non aveva potuto decidersi a lasciare così il suo pollicino ed era tornata indietro. E adesso che Nils se ne stava immobile, osò accostarglisi. Senza dubbio aveva capito che era lui. Nils lanciò un grido di gioia e la strinse tra le braccia. Le altre oche allora si avvicinarono e presero a carezzarlo col becco. Schiamazzavano e chiacchieravano e si congratulavano con lui. E anche Nils allora parlò, ringraziandole del bel viaggio che gli avevano fatto fare. Ma bruscamente le oche tacquero e si scostarono guardandole in modo strano. Pareva che all'improvviso si fossero rese conto del cambiamento avvenuto e si dicessero: «Eri diventato un uomo, non ci capisce più e neppure noi lo comprendiamo». Nils si alzò e tornò vicino ad H. La baciò e la carezzò e altrettanto fece con Ixi e Caxi, con Colmo e Neli e con Visi e Cusi, tutte le vecchie oche dello stormo. Poi si volse rapido, risalendo la spiaggia diretto a casa. Sapeva che il dispiacere degli uccelli non dura mai a lungo e preferiva separarsi dalle amiche finché ancora esse rimpiangevano la sua perdita. Giunto che fu sul ciglio delle dune, si voltò a guardare gli uccelli che si preparavano a frotte a varcare il mare. Tutti gridavano i loro richiami, soltanto uno stormo di oche selvatiche volava in silenzio e continuò così finché Nils poté seguirlo con lo sguardo. Ma il triangolo che formavano era perfetto, gli intervalli tra un uccello e l'altro tutti uguali, la velocità giusta, i colpi d'ala vigorosi e regolari. Nils sentì un tale empito di rimpianto che quasi avrebbe desiderato ridiventare l'omino che poteva viaggiare al di sopra della terra e del mare con uno stormo di oche selvatiche. Postfazione. Prima di pronunciare la parola fine, voglio far notare che in quest'ultima parte l'autrice Selma Lagerlöf parla di sé, del fatto che già anziana e famosa ricomprò la tenuta dove era cresciuta e che ci si trasferì per passare i suoi ultimi anni, come saprete se avete ascoltato la presentazione di questo libro. Selma incrocia la sua storia personale con le invenzioni narrative del romanzo, chiudendo il cerchio del percorso iniziatico da vera maestra e usando ancora una volta, come tante altre autrici, la scrittura come strumento catartico. Nel ritornare a casa, sia sulla carta stampata che nella vita, Selma Lagerlöf fa quella che nella via sciamanica si chiama ricapitolazione. Osserva, analizza, medita e comprende il senso profondo di ciò che accade. Un'altra cosa interessantissima dal punto di vista storico e antropologico di questo romanzo è la descrizione della vita nella tenuta, che ci conferma ancora una volta la correttezza delle descrizioni di Rosa Luxemburg sull'economia naturale, delle fattorie autosufficienti, fin nel dettaglio del calzolaio che andava di fattoria in fattoria ogni anno e si fermava il tempo di fare tutte le scarpe che occorrevano. In L'accumulazione del capitale, Rosa Luxemburg descrive questa economia precapitalistica, senza denaro e senza debito, che fu poi distrutta dall'economia commerciale e poi da quella capitalistica. Nel suo modo leggero e gioioso, Selma ci parla della vita rurale in Svezia, anche nelle tragedie come nelle epidemie che distruggevano intere famiglie, nel caso dell'adolescente Åsa e del suo fratellino. Leggere queste pagine è stato un vero e proprio immergersi nel mondo di 2 secoli fa, un mondo e una saggezza che Selma racconta attraverso il becco del corvo, dell'aquila, dell'oca, della volpe, ma non per questo meno vero e meno saggio. Un'opera davvero notevole che fa bene ad ogni età e con la quale la nostra Maria Montessori avrebbe amato allenare alla lettura le sue classi infantili. Naturalmente è impossibile non pensare a Pinocchio di Carlo Collodi. Ci sono tantissime similitudini tra il burattino che diventa un ragazzo vero e il ragazzo vero che diventa un coboldo per poi ridiventare ragazzo. E ci sono similitudini tra la fata dai capelli turchini e la saggia oca capostormo H. Chissà, magari Selma aveva letto Pinocchio, che era stato pubblicato più di un ventennio prima, e ne aveva tratto ispirazione, o forse no, ma le storie iniziatiche si assomigliano per forza, poiché pescano tutte da un archivio comune, che è la memoria cellulare della tradizione sciamanica che accompagna il cammino spirituale dell'umanità fin dall'alba dei tempi. E ora possiamo dire fine.